Questa mail è firmata Paolo Ghilli, arriva da New York e dice in sintesi solo poche righe per esprimervi il mio rammarico per le cose che dite e scrivete sulla vicenda Roma, quindi non solo a me ma al gruppo Sole 24 Ore. In segno vi vengono i dubbi in una sola direzione. Conosco da vicino una persona che lavora nella trattativa da mesi e vi garantisco che la trattativa è molto seria. Vi do anche una chicca: il mega party per la firma sarà domenica 17 aprile nella Villa Ripallotta. Ma non lo dite a nessuno, abbia pazienza Paolo, ma lei ci dà un'informazione così chiotta e vuole che non, beh, non ci facciamo. Potevano invitarci Gigi, almeno. Ci potevano invitare, ci potevano invitare, visto che sia stato, sarebbe stato bellissimo esserci. Vabbè, quindi mega party domenica 17 aprile, vuol dire che ci siamo allora? Beh, lo hanno annunciato anche coloro che curano l'immagine del gruppo di americani in Italia. Entro 48 ore ci sarà questa firma, tra l'altro tutto lo Stato Maggiore di Unicredit è sbarcato in queste ore a Boston, per cui tra oggi e domani, o forse sabato tutt'al più, si avrà finalmente la firma e si chiuderà questa lunghissima trattativa, sulla quale diciamo che abbiamo cercato, per le notizie, per le scarse notizie che sono trapelate, quando parlo di notizie mi riferisco a informazioni in qualche modo verificabili e verificate e non alle tante voci che sono, certo, che sono circolate, finalmente porterà la Roma fuori dalle secche